e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, ti dico subito che sto sperimentando quello che abbiamo detto ieri in trasmissione. Il mio sistema immunitario sento che sta facendo un po' fatica a carburare. Sarà perché non ho dormito tanto, dico solo che ho infornato una bella... delle lasagne stamattina alle 6. Sì, erano scongelate da ieri sera, stamattina pronte, e le ho cucinate già stamattina, così stasera siamo a posto. Pronti in tavola. Hai fatto anche le ore piccole. L'ho fatto per quello. So anche perché avrai seguito il faccia a faccia tra Hillary Clinton e Donald Trump. Ebbene sì, ho puntato la sveglia a quell'ora perché un po' volevo, non ho resistito a lungo naturalmente, però qualche momento interessante me lo sono voluto vedere. Ti ha dato soddisfazione. Mi ha dato soddisfazione perché comunque faccio il tifo per Hillary, nonostante tutte le accuse. Bisogna che dire Hillary Clinton e Donald Trump, perché abbiamo un ascoltatore che ci bacchetta contesto. Tutte le volte. È vero, vabbè. Perché chiamiamo perché Trump lui e Hillary lei. Ah. E già questa sottile differenza questa potrebbe... Questa è stata quindi, notata. No, sì. Io in totale buona fede la chiamo così perché la seguo da tantissimi anni, ho letto tutti i suoi libri. E, insomma, io faccio parteggio per questa donna. Poi non so come andranno le cose, ma diciamo che questo primo round è andato a netto vantaggio della signora in rosso. Ecco, agguerrita. Sì, e il vestito diceva tutto, come hanno sottolineato in molti. Vediamo allora che cosa dice la nostra rassegna. Assolutamente, via. E la rassegna stampa di cuore si apre con una anticipazione. Sta per essere presentato a Roma, al Ministero della Salute, il volume I numeri del cancro in Italia 2016, il censimento ufficiale in grado di offrire una panoramica aggiornata sui numeri delle neoplasie relative all'anno in corso. Questa pubblicazione, firmata dall'AIOM, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, e dall'Associazione Italiana Registri Tumori, rappresenta un appuntamento annuale indispensabile sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini, proprio per conoscere l'impatto dei tumori con dati epidemiologici relativi agli ultimi 12 mesi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Pinto, presidente nazionale di AIOM, per alcune anticipazioni. Grazie professore, buongiorno. Sì. Professor Pinto? Sì. Eccola, la sentiamo? Sì. La sentiamo, la richiamiamo perché abbiamo in volevamo darvi in anteprima il mondiale, direi. In anteprima mondiale questa, ma richiameremo sicuramente e andiamo con la nostra seconda notizia della rassegna stampa. Ho cominciato ad aiutare la ricerca quando nel mio condominio si è trasferito Mirko. Siete i benvenuti, piacere. L'ho appena comprata. Pure io. Con lui ho imparato a rinunciare a tante cose, come al sonno, per esempio. Io adesso vado a bussarli. No, non è educazione. O ad un aereo, spesso. Calma, calma, vai con calma. Ma rinunciare al proprio posto auto... Questo è troppo, Mirko. Questo, mi dispiace... Ora, questo è il mio posto. Questo è il mio posto, Mirko. E adesso io metto la macchina qui. Guarda che chiami i vigili. Io chiamo la ricerca contro la SMA e dono un sacco di soldi. Così tu magari un giorno guarisci e te... No. Un giorno. Tu chiami i vigili, io chiamo la ricerca, così lo avete sentito anche voi. Checco Zalone nello spot per la campagna di raccolta fondi di famiglie SMA, l'associazione dei genitori di bambini ed adulti affetti da atrofia muscolare spinale, che andrà avanti fino a sabato 8 ottobre. Uno spot che molti hanno definito irriverente, ma che in realtà è una vera e propria rivoluzione. In linea con noi, saluto subito Daniela Lauro, presidente delle famiglie SLA. Buongiorno signora e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. E complimenti signora, riuscire a far ridere trattando un tema serio come quello della SMA, l'atrofia muscolare spinale, non è un'impresa facile, eppure in questo spot a sostegno della ricerca Checco Zalone ci riesce benissimo, tanto che anche il Premier ha detto che la prossima volta che qualche dirigente vorrà fare una campagna di comunicazione sul Fertility Day lo obbligheranno a chiedere consiglio a Zalone, sicuramente farà centro. È una campagna assolutamente innovativa, ci vuole però sempre coraggio ad aprire nuove strade. Ci racconta com'è nata? Intanto noi, appunto, come diceva lei all'inizio, siamo un'associazione di genitori e pazienti. La SMA è una malattia neuromuscolare degenerativa ed è molto invasiva sui nostri bimbi. È una patologia molto invalidante, però questo non ci ha mai fatto abbattere. Noi siamo sempre dei genitori positivi e cerchiamo il più possibile di far vivere ai nostri figli una vita normale. In questi anni Checco, che è amico di una nostra famiglia pugliese, si è avvicinato alla nostra associazione, ci ha sempre sostenuto in determinate campagne. Da questo incontro tra Checco e Anita, questa ragazza pugliese, è nata l'idea di poter realizzare uno spot a favore di famiglie SMA. E proprio da un incontro che abbiamo avuto, diciamo, decisionale su che tema trattare, eccetera, lui ha sposato quella che è la nostra modalità di comunicazione: non piangersi addosso, ma cercare di trovare il positivo in situazioni anche molto, molto drammatiche. E da questa è nata proprio l'idea di raccontare in modo diverso la disabilità, senza tristezza, ma con un sorriso, perché però fa riflettere sicuramente. E naturalmente per raccogliere fondi per finanziare la ricerca. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Marika Pane, direttore clinico del Centro Nemopediatrico di Roma. Buongiorno e bentornata, dottoressa. Buongiorno a voi, buongiorno. Dottoressa, prima di tutto ci spiega che cos'è la SMA? La SMA è, come diceva anche la nostra presidente, è una malattia genetica, una malattia ereditaria in cui entrambi i genitori sono portatori sani della malattia e hanno il 25% di ogni nuova gravidanza di trasmettere ai loro bambini appunto l'atrofia muscolare spinale, una malattia del motoneurone in cui appunto manca l'impulso motorio che dal motoneurone parte e arriva ai muscoli, per cui i nostri bimbi sono ipotonici, quindi si muovono meno. Abbiamo diverse forme, dalla forma più grave, la forma 1, alla forma poi diciamo più lieve, tra virgolette, la forma 3, in cui i bambini riescono anche ad essere un po' più autonomi, anche a camminare autonomamente. Questo spot ha l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca, che ha fatto passi avanti. L'obiettivo però principale di questa campagna è permettere la distribuzione del primo farmaco salvavita per i pazienti con uno stadio più avanzato di SMA. Sono circa 200 persone in Italia, soprattutto neonati e bambini. Questo farmaco, che non cura la malattia, permette però di prolungare la vita delle persone che ne sono affette. Dottoressa Pane, ci spiega? Assolutamente, è un momento storico, un momento in cui noi ricercatori clinici e le nostre famiglie sono da un lato con un grande entusiasmo, dall'altro forse anche con un po' di paura, perché finalmente dopo tanti anni, noi fino a qualche anno fa non avevamo nulla da offrire alle nostre famiglie, adesso finalmente riusciamo a proporre qualcosa. Sono arrivati un paio di anni fa i primi trial clinici in Italia e finalmente qualche mese fa l'FDA ha dato la possibilità di commercializzare il primo farmaco per la forma più grave, come diceva lei, per la forma 1, in cui appunto i nostri bambini, purtroppo, se non si fa nulla, hanno un esito infausto, quindi non hanno la possibilità di sopravvivere a lungo. E invece questo farmaco ha dimostrato, i trial che abbiamo fatto sia in America che poi anche noi qui in Italia, hanno dimostrato un aumento della sopravvivenza dei nostri bambini e dei grossi miglioramenti. Bisogna stare con i piedi per terra, naturalmente, perché diciamo l'entusiasmo è tanto e noi appunto i dati preliminari sono soddisfacenti, ma non siamo ancora di fronte alla vera e propria cura della malattia, ma siamo di fronte a un tentativo, o comunque alla speranza, che tante cose in più, che si possa migliorare la vita dei nostri bambini e aumentare la loro sopravvivenza. Oltre questo, alcuni bambini hanno dimostrato anche dei miglioramenti motori e quindi noi speriamo, insomma, di poter somministrare questo farmaco a tutti i bambini italiani in diverse fasce di età, sicuramente, perché con la forma 1 noi in Italia abbiamo da bambini di pochi mesi a bambini anche grandi, oltre i 10 anni, quindi la nostra speranza è quella di poterlo somministrare a tutti i bambini e vedere, diciamo, poi i diversi risultati che questo farmaco può fare nelle diverse fasce di età, che sicuramente saranno diverse, perché le aspettative che abbiamo per un farmaco, diciamo, che va a lavorare su un bimbo appena nato, un bimbo piccolo, saranno sicuramente diverse rispetto a quelle che potranno fare o potranno avere su un bambino un po' più grande. Tra poco verranno, tra l'altro, comunicati i criteri di scelta, dottoressa Pane, corretto? Sì. Assolutamente sì, giovedì ci sarà un webinar in cui si appunto spiegherà alle famiglie, diciamo, qual è la modalità di accesso e di entrata, diciamo, nella possibilità di poter usufruire del farmaco, e quindi diciamo tutti i bambini poi avranno con dei criteri di, diciamo, quantomeno di tempo, perché sì, noi pensiamo di poter, diciamo, soddisfare di poterlo dare a tutti, ma sicuramente con un criterio di tempo legato probabilmente all'età. Dottoressa Pane, grazie per la sua chiarezza, per essere grazie stata con noi. Un abbraccio e complimenti ancora a Daniela Lauro, presidente di Famiglie SMA. Un abbraccio naturalmente che estendiamo a tutte le famiglie e ai bambini. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Cerchiamo di ripescare il professor Pinto che ci ha promesso un'anticipazione, speriamo. Andiamo e torniamo. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Cuore e denari. E torniamo insieme, abbiamo ripristinato il collegamento col professor Pinto, presidente dell'AIOM. Buongiorno professore, ci siamo per una... Buongiorno. Per un'anticipazione sui numeri delle neoplasie relative all'anno in corso, una pubblicazione che viene presentata tra poco al Ministero della Salute. Professore, ci fa un'analisi, ci anticipa quelli che sono i dati più significativi? Ma possiamo dare un bilancio sicuramente positivo per il controllo del cancro nel nostro paese. L'incidenza rimane sostanzialmente stabile anche se aumentano i tumori nelle donne. Il dato rilevante è che si riduce la mortalità di circa l'1% all'anno e dai dati Istat 2013 rispetto al 2012 abbiamo 1200 morti in meno per tumore nel nostro paese. Io penso che questo sia un dato rilevante. Ovviamente abbiamo risultati molto positivi per alcune patologie, mammella, colon retto, in parte per il polmone, perché il polmone è un po', c'è un dualismo tra un miglioramento di incidenza e mortalità nell'uomo e purtroppo questo non avviene ancora nelle donne, dove abbiamo 2000 morti in più per cancro del polmone rispetto al 2014 e questo soprattutto legato al fumo delle sigarette a cui le donne non hanno ancora rinunciato come è avvenuto nel sesso maschile. L'altro dato a mio avviso rilevante è che in Italia abbiamo, nonostante per la sanità sì, abbiamo una percentuale più bassa del PIL rispetto all'Europa occidentale, abbiamo le migliori sopravvivenze sia rispetto all'Europa nel suo complesso che ai paesi più industrializzati. Questa è la misura della buona oncologia che c'è nel nostro paese. A questo aggiungerei, se mi permette, che nel 2015 abbiamo 3.000 italiane e italiani che hanno avuto un rapporto, hanno vissuto il problema cancro e che attualmente sono fuori da questa malattia. Grazie professor Pinto per queste anticipazioni, la ringraziamo, l'aspettiamo qui a Cuore Denari per dedicare proprio una puntata nel dettaglio per andare a capire esattamente i numeri. Professore, grazie, la lascio alla presentazione del volume. Grazie per essere stato con noi in anteprima a Cuore Denari. E adesso andiamo alla nostra rassegna finanziaria. Allora, naturalmente dobbiamo anche oggi monitorare un po' quello che succede in borsa. La partenza era stata positiva dopo i cali abbastanza forti di ieri, determinati dalle forti preoccupazioni che ci sono in Europa ancora una volta sul settore bancario. Ieri il nuovo epicentro della crisi è stata Deutsche Bank, con il mercato che si interroga su come questo istituto tedesco, che ieri ha aggiornato i minimi storici, farà fronte a 14 miliardi di dollari di multa da pagare agli Stati Uniti per le vicende legate ai mutui subprime. Ieri questa vicenda ha provocato vendite diffuse sui listini del vecchio continente, oggi provano a recuperare ma ce la fanno a fatica. Più 0,10% Francoforte, Parigi più 0,21%, Londra più 0,11% e Milano, che guadagnava circa mezzo punto percentuale in avvio, ha bruciato tutto, adesso perde lo 0,10%. A Piazza Affari stamattina vanno bene Snam, Rete Gas più 1,52%, Enel più 1,17%, Luxottica in rialzo di un punto e Monte dei Paschi che davvero va sul lotto volante, in partenza andava molto meglio, adesso guadagna circa un punto. Ieri c'è stato un consiglio di amministrazione dal quale si è appreso appunto al termine di questa riunione molto delicata che il piano industriale della banca verrà definitivamente presentato il 24 ottobre. Si farà l'aumento di capitale ma sarà più contenuto rispetto alle previsioni iniziali, non più 5 miliardi ma 3 miliardi, ci sarà probabilmente un'operazione di conversione, come abbiamo già detto tante volte anche nelle nostre trasmissioni, delle obbligazioni subordinate in circolazione in azioni della banca, ovviamente per gli obbligazionisti che accetteranno questa conversione, e poi per la banca, e questa è un'operazione probabilmente la più difficile da fare, è in programma la cessione dei 27 miliardi di sofferenze che l'istituto ha in pancia. Tutte queste promesse rilasciate dall'amministratore delegato Marco Morelli vengono premiate dal mercato ma senza particolare enfasi, comunque c'è questo rialzo di un punto di incoraggiamento. I titoli con i ribassi più forti, Saipem, Azimut, Leonardo, che perdono circa 2 punti percentuali. Per quello che riguarda il mercato obbligazionario, che è il tema al quale dedichiamo il nostro piccolo approfondimento, oggi il Tesoro mette in asta CTZ e BTP indicizzati fino ad un massimo di 3 miliardi di euro e noi continuiamo sempre a guardare con grande attenzione queste operazioni del Tesoro che, come sapete, si concludono sempre con una richiesta del mercato appunto di rendimenti che stanno continuando a scendere. Siamo, soprattutto per le brevi scadenze, su rendimenti azzerati o addirittura sotto zero. Questo è il motivo per cui gli investitori, soprattutto quelli che sono particolarmente affezionati al mercato obbligazionario, cercano in giro per il mondo opportunità di investimento un po' più generose. E se magari hanno anche un obiettivo di sostenibilità, allora ecco che l'investitore è magari un po' più soddisfatto. È per questo che noi oggi vogliamo raccontarvi di un'operazione che è partita ieri sul mercato MOT di Borsa Italiana. Proprio da ieri infatti sono quotate due nuove obbligazioni che sono state appunto emesse dalla Banca Mondiale. Che caratteristiche hanno, a chi sono adatte e tutte le caratteristiche tecniche di questa operazione stamattina ce le spiega Pietro Poletto, collegato in diretta con noi da Londra e responsabile di tutta l'area del mercato appunto obbligazionario di Borsa Italiana, London Stock Exchange, dovremmo dire più correttamente, ma ancora noi la pronunciamo all'italiana. Poletto, buongiorno e benvenuto. Pronto? Buongiorno a tutti voi. Ecco come senti. Buongiorno a tutti voi. Ottimo, grazie, perché stamattina siamo un po' sfortunate con i collegamenti telefonici, quindi la voglio sentire forte e chiaro, Poletto. Senta, allora. Cercherò di urlare. Bravissimo. Allora, due nuove obbligazioni, durano 3 anni per lo sviluppo sostenibile, emesse dalla Banca Mondiale. Peraltro non è la prima volta che circolano queste operazioni in Borsa Italiana, poi ne parleremo. Che caratteristiche ha questa operazione nello specifico partita ieri, Poletto? Ma intanto siamo molto contenti che World Bank, che è ovviamente un emittente AAA, sappiamo la penuria di emittenti AAA che c'è sul mercato, per cui che abbia deciso di utilizzare Borsa Italiana per distribuire le proprie obbligazioni agli investitori italiani. Ovviamente World Bank è un primario emittente di sistemi, come dicevo, AAA, che ovviamente deve finanziare investimenti sostenibili nel mondo, ovviamente vanno nell'infrastruttura, nel sociale e quant'altro in giro per il mondo. Questo è un'interessante area di sviluppo che evidentemente tutti sanno e probabilmente per chi partecipa a questo tipo di investimento può anche partecipare a questo tipo di iniziative, diciamo, importanti che l'istituto più importante come World Bank sta attuando negli anni. Sentiamo un fastidioso fruscio, Poletto, magari se si può sistemare un pochino con appunto l'apparecchio vicino alla bocca, poi non so se il problema è questo perché adesso perderemo anche tempo a ripristinare il collegamento. Comunque sono due obbligazioni che durano 3 anni, denominate in due valute straniere, quali sono? Sì, sono il rand sudafricano e il real brasiliano. Il rand sudafricano ha un rendimento cedolare del 6,60%, mentre il real brasiliano del 7,60%, con una scadenza, come diceva lei, di 3 anni. Certo. La cosa interessante è che la tassazione è equiparata a quella del titolo di Stato di 10,5. Quindi rendimenti piuttosto interessanti con una fiscalità vantaggiosa. Che cosa farà la Banca Mondiale con il denaro raccolto attraverso queste operazioni? Ma ovviamente ci sono molti progetti, si può tranquillamente andare a visitare il sito della World Bank dove vengono chiaramente specificati quali sono tutte le iniziative in giro per il mondo con cui i fondi che vengono raccolti si vanno a finanziare questi progetti, per cui è anche interessante scoprire al di là di queste singole operazioni tutte le iniziative sociali che sono sostenibili che vengono fatte da questi istituti in giro per il mondo. Grazie a Pietro Poletto, segnalo ai nostri ascoltatori che i tagli minimi di investimento di queste obbligazioni sono di 2.700 euro per l'obbligazione in real brasiliano e 2.500 euro per l'obbligazione in rand sudafricano. Ci torneremo più avanti su questi argomenti, intanto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Nicoletta, direi di andare a sentire il giornale di radio e torniamo Buona subito idea. Dopo. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Allora, un tema sempre da maneggiare con cura questo, soprattutto nell'accezione in cui la proponiamo noi oggi, questa mattina, ai nostri ascoltatori. Allora, qualcuno si ricorderà, perché in realtà poi era partito tutto il folklore attorno a questo argomento che, inevitabilmente si scatena. Vi ricorderete della famosa norma antibadanti che era stata introdotta nel 2011 per contrastare i cosiddetti matrimoni di comodo. C'è appunto, e probabilmente esiste ancora purtroppo, quel fenomeno legato alla situazione in cui si trovano molti anziani che convolano a nozze con persone molto più giovani che magari si sono prese cura di loro negli ultimi anni della loro vita. E allora, appunto, proprio per evitare che in particolar modo le pensioni di reversibilità fossero garantite a queste persone, c'è stata appunto una norma che aveva limitato un po' questo fenomeno. Adesso vi ricorderemo tutti i termini. Qual è la novità? Perché ci torniamo su questo argomento? Perché proprio qualche giorno fa c'è stata una pronuncia della Corte Costituzionale che ha ripristinato praticamente la situazione precedente e ha consentito che tornasse l'importo pieno per le pensioni di reversibilità che erano state appunto decurtate per effetto della norma antibadanti. L'INPS ha preso atto di questa situazione, ma naturalmente non è che sia vista molto bene proprio dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Fatto questo, deve ottemperare alla pronuncia di illegittimità appunto pronunciata dalla Corte Costituzionale. Per rifare il punto della situazione, Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E abbiamo con noi anche un gradito ritorno, naturalmente lo è anche quello di Matteo, certo, ma è anche quello dell'avvocato Gianetto Regassani, un grande amico di Radio 24, presidente e fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Già sento già un cri-cri. Ecco, avvocato, no, perché stamattina coi telefoni proprio non so se è colpa nostra o della, come dire, della tecnologia delle telecomunicazioni mondiali che ci sono avverse, ma sentiamo un cri-cri. Uno stropiccio. Va bene, allora adesso proviamo anche con lei. Invitiamo anche i nostri ascoltatori a raccontarci se conoscono situazioni di questo tipo, insomma, avete magari conosciuto un anziano di cui si prendeva cura, magari appunto una persona, un assistente, e che poi casualmente con il quale è scoppiato l'amore proprio negli ultimi anni di vita e la persona si è guadagnata la pensione di reversibilità. Io la metto un po' giù così, nella maniera che può sembrare giudicante, eccetera, però qualche volta qualche sospetto, un po' il commento all'insegna della malizia ci sta anche. Sono stata abbastanza diplomatica, politicamente corretta, perfetta, oppure devo, guarda, dirla in maniera diversa, Nicoletta? 800 24 00 24, se volete intervenire con le vostre storie. Matteo, allora, quando è stata introdotta la famosa norma ribattezzata, già per come è stata ribattezzata è posta male, perché la chiamano la norma antibadanti, con quali obiettivi fu introdotta, Matteo? Allora, fu introdotta appunto nel 2011 con effetto dal 2012, e l'obiettivo era proprio quello, diciamo che è stata promossa soprattutto dalla Lega Nord, e quindi diciamo già si capisce un po' quale la genesi politica, la genesi e la finalità, ma la finalità era abbastanza espressa a suo tempo, cioè era cercare di contrastare appunto il fenomeno a cui hai accennato tu dei matrimoni in tarda età di pensionati con delle giovani mogli. Può essere che capita anche il contrario, si parla sempre del maschile di un pensionato, bravo, che si sposa con una giovane. Oppure può benissimo di una signora un po' âgée che si sposa con... Che poi parliamone, esatto, perché qua il tema centrale sono i 20 anni di differenza, esatto, no? E quindi se l'ottantenne si sposa con la sessantenne, poi non è che puoi dire si sposa con la giovane, comunque con una signora che ha molta differenza di età con il, esatto, scontraente. La norma voleva contrastare questo fenomeno ed è intervenuta su diciamo l'aspetto previdenziale, quindi è stato deciso che a fronte di un matrimonio contratto tra due coniugi di cui uno doveva avere più di 70 anni e l'altro doveva avere almeno 20 anni in meno, in caso di decesso del più anziano, già titolare di pensione, la pensione di reversibilità, che di norma è il 60% se non ci sono figli, veniva decurtata di un 10% aggiuntivo per ogni durata del matrimonio inferiore ai 10 anni. Per ogni anno di durata del matrimonio. Inferiore ai 10 anni, cioè il matrimonio è durato 7 anni, del 60% ti tolgo un ulteriore 30%. Se il matrimonio è durato un anno solo, dal 60% ti tolgo il 90%. Un mese me li devi dare tu i soldi. Incredibile. E quindi la norma appunto aveva questo obiettivo di contrastare il fenomeno, e quindi andava a tagliare pesantemente le pensioni di reversibilità di chi si trova con l'obiettivo di fare un po' di risparmio pubblico, no? Perché naturalmente queste sono persone che non hanno minimamente versato un contributo, come non erano considerate degne di prendere, percepire un assegno pieno. Allora, diciamo che appunto la genesi e l'obiettivo era forse più, diciamo, politico e di costume. Poi è ovvio che c'è un risparmio anche economico, che comunque non era evidentissimo, perché appunto le simulazioni che erano state fatte è che questa norma avrebbe riguardato all'incirca 8.000 pensioni di reversibilità all'anno, che significa circa il 4% di quelle che vengono erogate riconosciute ogni anno, quindi molto limitato, diciamo, l'impatto. Dopodiché l'impatto sui singoli invece sarebbe stato molto elevato, perché il taglio medio era stato calcolato nel 45%, quindi consistente. E a livello di risparmi proprio in soldoni, anche qua le stime che erano state fatte arrivavano a un 45 milioni di risparmio nel 2014, quindi a 2 anni, perché poi è incrementale, no? Parte certo. con poco, poi pian piano vai avanti, si aggiungono le pensioni, il risparmio aumenta. Quindi si partiva da 9 milioni di risparmio all'anno nel 2012, il primo anno si arrivava a 45 milioni nel 2014. Visto che è stata, diciamo, bocciata quest'anno, ecco, occhio e croce, abbiamo risparmiato circa 150 milioni. Vabbè, in, per carità, poi tutto fa, mezzo, come si 4. Dice, però ecco, non è che abbiamo portato a casa chissà quale risparmio. Avvocato Gassani, allora adesso le faccio fare subito l'avvocato. Queste le premesse, la situazione pregressa. Come siamo arrivati alla decisione della Corte Costituzionale delle ultime settimane? Ma la Consulta ha preso una posizione netta facendo riferimento al diritto di ogni lavoratore di accantonare la propria pensione attraverso appunto, i contributi, e che è giusto quindi che un lavoratore possa fare della propria pensione quello che vuole. Cioè, lo Stato non può intervenire nella camera da letto, andare a guardare le carte d'identità e decidere di una pensione che è stata già costruita negli anni da quel lavoratore. Per cui si è ritenuto che fosse un trattamento quasi sanzionatorio nei confronti di questi anziani, quindi ci fosse una disparità evidente semplicemente per motivi anagrafici. Secondo me il problema dei matrimoni tra anziani, coppie e badanti non si risolve certamente così, quanto invece si risolve con un accurato controllo di certi matrimoni che spesso vengono anche organizzati a tavolino da alcune associazioni malavitose, come la Procura di Palermo e di Lecce ha dimostrato. Si risolve attraverso un recupero della famiglia, perché spesso questi anziani sono soli per anni, abbandonati al loro destino, sposano la badante perché i figli non ci sono, si sono completamente disimpegnati, o spesso questi anziani sono schiacciati da una parte, erano schiacciati da questa legge, ma sono schiacciati anche dalle iniziative dei figli che cercano di impugnare il matrimonio. Sono messi al centro perché sono il pollo da spennare per tutti. Sì, diciamo che dare la pensione di reversibilità poi alla badante che si è presa cura di loro negli ultimi anni della propria vita è proprio l'ultimo dei problemi per queste persone. Ci sono delle truffatrici, ma ci sono anche delle badanti, noi lo sappiamo, perché in tribunale poi le cose si sanno, no? Si fanno le perizie, si fanno le indagini socioambientali, si fanno gli interrogatori, ci sono badanti che si sono sposate per interesse e badanti che comunque almeno sono rimaste fedeli fino all'ultimo giorno con quell'anziano e sono state al loro capezzale, perché se non diciamo questa roba qui stiamo parlando di altro. E allora è chiaro che poi tra l'altro 2 milioni di badanti in Italia rappresentano il welfare di questo paese, visto che una politica per la famiglia e una politica per la terza età non c'è. Se tornassero tutti a casa queste badanti, avremo gli anziani praticamente a morire in casa, perché ormai di loro in molte realtà non si interessa nessuno. Insomma, avvocato Gassani con molta chiarezza ci è arrivato a dire: non possiamo liquidare la questione con la presunzione di malafede. Poi però il vostro centro studi, avvocato Gassani, calcola anche, questi sono dati pubblici che avete diffuso, che ogni anno sono almeno 2500 i procedimenti in sede civile che riguardano anziani che hanno allacciato relazioni con donne molto più giovani per le quali scatta la denuncia del reato di circonvenzione di incapace e truffa. Sono tanti comunque. Beh, sono tanti, ma consideriamo che siamo 60 milioni di abitanti, consideriamo che siamo un paese ormai, credo anche noi, in Europa, e soprattutto ci sono 2 milioni di colpe badanti, quindi per la legge dei grandi numeri, 2500 denunce o procedure che riguardano questi reati non sono molti. Non sono un numero che ci fa preoccupare, certamente è un fenomeno sociale comunque da attenzionare, perché è chiaro che comunque vedere la ventenne che spolpa vivo l'anziano di 90, perché ci sono anche queste situazioni di 60 anni di differenza. Addirittura. Sì, come no. E quindi voglio dire, in questo caso forse un'attività di controllo discreto ma fermo ci deve essere. Certo. Questo non c'è dubbio, attenzione. Non stiamo certamente dicendo in maniera così acritica che l'amore non è età. Sì, ci sono dei limiti o quantomeno un minimo di attenzione ci deve essere. Però ho l'impressione, avendo letto alcuni giornali, che c'è una crociata contro le badanti e le coppie che non ci porta da nessuna parte, perché poi le perizie dei tribunali, ecco, parliamo dell'aspetto processuale, certificano che nel 50% dei casi gli anziani che hanno contratto matrimonio con queste donne erano perfettamente capaci di intendere e volere. Per cui i figli e gli altri se ne sono andati con la coda tra le gambe, non potendo più impugnare niente. Quindi evidentemente è un fenomeno sociale. Chiarissimo. Ritorniamo allora adesso alla decisione della Corte Costituzionale, che dicevamo ha ripristinato la situazione pregressa rispetto appunto a quanto era stato stabilito e rispetto a quanto aveva previsto la ridico norma antibadanti, anche se alla luce delle considerazioni fatte dall'avvocato Gassani consideriamo anche noi che non è che sia proprio il termine più brillante per definire questa norma. Che tipo di conseguenze ha, Matteo Prioschi, a questo punto questa decisione? Ripristinando la situazione pregressa significa che tutte le decurtazioni delle reversibilità avvenute fino a questo momento devono essere restituite, esatto, alle dirette interessate. Sì, e questa è la comunicazione che ha fatto l'INPS qualche giorno fa, dicendo appunto che d'ora in avanti le pensioni di nuova liquidazione, quindi quelle di reversibilità che verranno erogate da qui in avanti a seguito del decesso appunto di uno dei due coniugi, saranno a importo pieno, quindi senza più le decurtazioni. Mentre per quelli già liquidate dal 2012 a oggi, si provvederà automaticamente d'ufficio a ricostituire l'importo pieno per le mensilità da qui in poi, e poi verranno restituiti anche le differenze trattenute in passato. Avvocato Gassani, torno a lei. Ammettendo che non ci sia quella situazione di trasparenza che caratterizza molte unioni di questo tipo, lei diceva prima, in realtà molti anziani contraggono questi matrimoni nella piena consapevolezza, nella piena serenità e nella piena lucidità, ammettendo invece che il caso non sia questo e ci siano situazioni di maggiore opacità, magari che vengono fiutate, situazioni che vengono fiutate anche dai familiari dell'anziano interessato. Allora, quali consigli possiamo dare quando in famiglia ci si trova di fronte ad un annuncio di nozze, diciamo un po' così, che coglie un po' di sorpresa, diciamo inaspettato, no? Ecco. Per prima cosa bisogna innanzitutto avere la prova che l'anziano non sia lucido e quindi abbia dei comportamenti strani. In secondo luogo che abbia elargito regali particolarmente costosi, stia assumendo comportamenti strani rispetto al comportamento usuale. A questo punto si presenta un esposto alla procura, se il matrimonio ancora non è stato celebrato, affinché la magistratura inquirente possa fare le indagini e anche bloccare il matrimonio addirittura. Dopo la celebrazione del matrimonio, molte volte succede che i figli vengono a sapere a nozze fatte di quello che è successo, a quel punto si può chiedere l'annullamento del matrimonio se sussistono chiaramente i presupposti di legge, tra cui sicuramente la incapacità di prestare un consenso rispetto a un negozio come quello del matrimonio, che presume appunto una decisione chiara e non subordinata ad altro. Quindi è chiaro che si può intervenire prima delle nozze, si può intervenire dopo le nozze, ma attenzione, i magistrati sono sempre molto attenti e sono anche molto prudenti, perché sanno perfettamente che ci sono interessi da una parte e dall'altra, interesse magari della non giovane coppia a sposare il miliardario novantenne, attenzione, parliamo sempre di anziani ricchi, straricchi, non l'anziano col minimo della pensione, perché altrimenti il fenomeno sarebbe molto più diffuso. E poi i giudici che cosa fanno? Dispongono una perizia psicologica e psichiatrica e quindi verificano se l'anziano in quel momento era in grado di poter sposarsi e quindi di prestare un consenso. Se la perizia dovesse sancire che l'anziano non era in grado di intendere volere o neanche parzialmente, anche momentaneamente, a quel punto ci sono le conseguenze sul matrimonio, su questo non c'è dubbio, l'annullamento, quindi l'invio a giudizio della giovane moglie per 5 mesi incapace. Però non è proprio un percorso semplicissimo, ecco. Assolutamente no. Perché bisogna proprio andare di grande dimostrazione. Esatto. Sì, non esiste una presunzione di follia solo perché si arriva a 70 anni. Bisogna verificarlo caso per caso. Ci sono casi di grandi amori e casi di grandi truffe. Poi non ci dimentichiamo che magari per questi anziani che rimangono soli molto spesso vanno in ospedale, si tratta di prendere delle decisioni anche con i medici e magari un matrimonio con una persona che ti assiste forse ti dà la possibilità di prendere delle decisioni in maniera più serena, perché se questa persona fosse lì in ospedale solo ad assisterti senza nessun vincolo no matrimoniale, avvocato Gassani, altrimenti non avremmo tanto parlato anche delle unioni civili negli ultimi anni, in realtà svolgono un ruolo delicato a volte anche in questo contesto, è l'unica persona che ti sta vicino in grado di prendere una decisione in un contesto ospedaliero. Ecco. La solitudine gioca bruttissimi scherzi. Gli anziani che non hanno la possibilità di permettersi una cosa, una badante, che muoiono in casa, sono circa 2.000 ogni anno, muoiono da soli. Il puzzo del cadavere che sveglia l'attenzione di qualcuno. A Roma soprattutto il fenomeno è emergenziale. Cioè abbiamo tantissimi anziani che vivono praticamente soli col minimo della pensione, abbandonati tutto l'anno, e poi magari vediamo sui giornali ho trovato questo anziano morto da 2 mesi, insomma c'è questo fenomeno, dobbiamo stare molto attenti questa crociata, poi dopo questa legge chiamata in modo orrendo anche badanti, sì infatti lo dicevamo, ci ha reso ridicoli davanti a tutta Europa. Lo dice questo... anche Arianna, forse se li lasciassimo meno soli questi anziani non sentirebbero il bisogno di innamorarsi delle badanti. E Roberto da Piacenza ci racconta che in provincia di Piacenza fanno perfino la festa delle badanti. Hai visto? Con grande dignità per questa professione della quale abbiamo tanto bisogno. Matteo, so che ti sei fatto anche un giro per alcuni paesi europei per capire un po' su questa storia della pensione di reversibilità, come funziona, cosa hai scoperto? Ho scoperto che in alcuni paesi non ci sono vincoli particolari, in altri invece ci sono. È un fenomeno diffuso intanto secondo te? Non so se hai potuto studiare a fondo la materia. No, cioè non ho guardato tanto il fenomeno del matrimonio. Dei matrimoni però, di interesse tra virgolette. Esatto, ho guardato diciamo la normativa previdenziale e in alcuni paesi ci sono dei paletti diciamo che a differenza della norma introdotta in Italia non parlavano di differenza di età tra i coniugi, ma mettono un minimo di età al coniuge che sopravvive per poter beneficiare della pensione. Ad esempio, in Francia si devono avere almeno 55 anni, altrimenti scatta diciamo un sussidio di 1 o 2 anni che dà un aiuto momentaneo, ma dopo questo decade, diciamo, per avere la pensione di reversibilità. Vita naturale durante bisogna avere almeno 55 anni. In Germania servono 45 anni, in Belgio anche lì 45 anni. Per cui diciamo che questo vincolo non è diciamo proprio campato per aria e tipico solo dell'Italia. L'Italia diciamo che l'ha introdotto con una finalità appunto magari politica, come dicevi tu. Politica e contestabile. Diciamo che anche a livello diciamo di proprio previdenziale tecnico c'è comunque un problema che si pone, soprattutto adesso che che è stato adottato il metodo contributivo e sempre più sarà diffuso. Cioè il concetto è la pensione dovrebbe essere in proporzione a quanto tu hai versato e a quanti anni ti spettano ancora di vita, no? La famosa speranza di vita. Allora, se io vado in pensione a 70 anni e ho diritto a un tot di pensione, e poi il beneficiario decede e la mia pensione, seppur decurtata, quindi al 60% passa a un'altra persona, in realtà quel mio capitale non copre tutti quegli anni che poi il beneficiario sopravvive. Giovane, certo. Quindi proprio a livello tecnico un problema si pone. Certo. Poi è una questione di decidere se comunque tutelare il coniuge che sopravvive. E quanto tutelarlo piuttosto che invece fare più attenzione ai conti. Sentiamo una testimonianza, quella di Alberto da Torino, che salutiamo veloce. Alberto, grazie. Buongiorno, io ho soltanto da dire che mio padre si è sposato con una persona che era mia coetanea, praticamente aveva 33 anni meno di lui e per fortuna è durato poco il matrimonio, perché è soltanto un anno e mezzo, però questa qua con il ricatto affettivo, se non mi fai, non mi dai certe cose, io ti lascio. Voi ti non lascio avevate solo. Potuto far niente, Alberto, per un no, po'. No, perché per rispetto perché mio papà padre, era lucido, certo, aveva sì, fatto una scelta lucido, consapevolmente. Però quando è morto ci siamo accorti di tutti i conti strani, i prelevamenti. Lui diceva che con 500 euro della sua pensione viveva tutto il mese, poi abbiamo scoperto che ogni settimana per levare 500 euro dal conto della sorella, quindi lui viveva con 2.500 euro ogni mese. E dove andavano questi soldi? Poi li abbiamo scoperto. E certo. I regali e tutto il resto. Va bene. Alberto, quindi, sì, queste sono proprio le situazioni, quelle che consentano alla famosa norma di essere ribattezzata norma antibadanti, perché appunto le storture poi di un sistema si manifestano in questo modo. Grazie a Matteo Prioschi di essere stato con noi. Abbiamo detto tutto di questa questione, almeno sì, al momento, a meno che non salti fuori qualcos'altro che fa rifare una marcia indietro. Avvocato Gassani, grazie anche a lei. Grazie a voi. Grazie molte. Noi adesso ci fermiamo perché è tempo di andare alla borsa e ai mercati finanziari. Torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Un rapporto d'amicizia, che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d'amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano, a volte c'è più sensualità che nel vero e proprio atto d'amore. Dacia Maraini. Siete d'accordo? Allora chiamateci 800 24 00 24 e scriveteci al 349 238 6666. Come dire, Deborah? Fateci amiche. Nicoletta me lo dice sempre. Mi vuoi fare amica? La mattina mi si presenta davanti alla scrivania tutte le mattine, il rito lo stesso. Mi vuoi amica? E tu cosa mi dici? Cioè, andiamo a prendere il caffè al volo. Vedi? Allora, condividete con noi le vostre storie di amicizia, ma forse prima sarebbe utile intenderci sul significato che diamo a questa parola, perché chiamiamo amicizia tante cose diverse, a volte sono surrogati dell'amicizia, confondiamo gli amici con i conoscenti, amici sono i colleghi di lavoro, magari quelli con cui abbiamo feeling, amici a volte sono, cercano di essere anche gli ex, tanto che molti rapporti sentimentali finiscono con una promessa, però mi raccomando, restiamo amici. L'amicizia ce l'abbiamo tutta sotto gli occhi, ma se ci viene chiesto così a freddo di definirla, scopriamo poi che non è così facile trovare le parole giuste per farlo. Forse ognuno ha un suo modo di intendere e di vivere l'amicizia. Probabilmente la stessa difficoltà la troveremo nel definire il concetto di salute, di stare bene, quando stiamo davvero bene. Allora oggi potremo provare a riflettere sull'amicizia ponendoci anche alcune domande su noi stessi. Ad esempio potremmo chiederci come diventiamo amici, come manteniamo l'amicizia nel tempo, ma anche come, perché l'amicizia, un rapporto di amicizia, si è rotto, si è dissolto, si è deteriorato. E potremmo anche pensare a quante volte abbiamo o ci siamo sentiti traditi da un amico, o ancora quanti amici che pensavamo di avere perso o avevamo cancellato nella nostra vita e poi abbiamo ritrovato. Le risposte a queste domande molto probabilmente potrebbero aiutarci a fare anche una storia del nostro modo di fare e di gestire l'amicizia, e lo facciamo oggi insieme a una nostra amica che oggi ha voluto festeggiare l'uscita del suo primo romanzo con noi. In pratica, proprio come si fa con le amiche più care, Deborah. Le madrine del battesimo, giustamente. E ha scelto bene. Vuoi presentarla tu? La presento io, la nostra grande Francesca Del Rosso, la nostra Wondi, una donna che ha insegnato a tante donne anche qualcosa di molto importante, come vedere la malattia sotto un punto di vista speciale. Ha trasmesso a tante donne un coraggio per andare avanti, anche sfruttando il potere dell'ironia, e quindi oggi appunto è venuta a portarci brevi mano il suo nuovissimo romanzo, che parla proprio di un'amicizia di lunghissima data tra due donne. Breve storia di due amiche per sempre, Mondadori. Voilà, ciao Franci. Ciao ragazze, ciao. Sono grazie molto felice ragazze di essere qui. Certo, siamo tutte ragazze dentro. Fuori non lo anche so. Fuori. Ma anche fuori, ma sì, dai. Allora, saremo amiche per sempre, finché morte non ci separi. Le due protagoniste del tuo romanzo, Tess e Clara, lo avevano giurato. Ma è davvero possibile? Perché la trama del tuo romanzo si incentra proprio su questa domanda apparentemente semplice. L'amicizia può durare per sempre? Per essere tale, deve durare per sempre? No, non credo assolutamente che l'amicizia per essere tale debba durare per sempre. Diciamo che spesso tra ragazze, soprattutto tra le giovanissime, ci si fa questa promessa, rimarremo amiche per sempre, questo giuramento di eternità, secondo me è molto spesso dovuto al fatto che quando si è giovani si vive un po' con uno stile manicheo, no? Dove tutto è bianco o nero, dove tutto è per sempre o mai, e quindi anche l'amicizia chiaramente deve essere per sempre e si vive questo sentimento in maniera assoluta, incondizionata, e si pensa che non sia possibile in qualche modo litigare e perdersi lungo la strada. Proprio mentre raccontavi prima della definizione delle varie e diverse accezioni legate al concetto di amicizia, vi vorrei ricordare una recente ricerca che ho letto qualche giorno fa su un gruppo di studenti dell'Università del Massachusetts, di Cambridge, dove si diceva che il 50% delle persone non sono amiche dei loro amici. Cioè, tu pensi che tu hai 10 amiche e queste 10 amiche, per queste 10 amiche tu non sei amica. Solo 5 dicono che sono tue amiche. Quindi manca proprio la reciprocità. Noi spesso, quindi vuol dire che diamo talmente tante diverse accezioni a questo termine che noi pensiamo di essere, quindi io dico questa è la mia migliore amica, magari questa non lo pensa minimamente. Ed è questo forse... Per questo io tutte le mattine vado da Deborah, perché voglio che lei mi faccia la promessa, me la rinnovi. Cerca conferma. Me la rinnovi ogni giorno. È insicura la ragazza. È giusto però, è giusto, la trovo una cosa giusta. E lei ti offre il caffè tutte le mattine per questo. Sempre li mi costano a fortuna, però perché io devo parecchio. Senti, noi abbiamo messo sulle pagine di Cuore Denari la copertina del libro, perché ci sono 4 piedi femminili intrecciati e c'è qualcosa di intimo e profondo in quello sfioramento di dita, no? La frase della Maraine con cui ha aperto accennava proprio a questa intimità, che è soprattutto forte tra le donne in tutte le fasi della vita, ma come tu hai sottolineato, nell'adolescenza in particolare. E l'amicizia tra le due protagoniste del libro inizia proprio negli anni dell'adolescenza. Insieme ai 4 piedi femminili con le unghie pittate di rosso ci sono anche dei granellini di melograno. Non si chiamano granellini, ma insomma... Semini. Chiamiamoli semini. Beh, sì, perché il melograno in qualche modo è un po' il coprotagonista di questo romanzo, che è un romanzo di fiction assoluta, che però racconta appunto questa grandissima amicizia fra le due protagoniste, Clara e Tessa, e queste due ragazze in qualche modo, tra le tante cose che condividono, condividono anche la passione per il melograno, che è un frutto buonissimo, che oltretutto, come voi saprete, è proprio di stagione. Sì, ecco, poi è ricchissimo di vitamina C, antiossidante, apriamo la parentesi. Ci tiene giovani, ecco, ed è bellissimo anche solo da vederla, vero? Il problema è che sporca tantissimo, però vabbè. Tinge un po' di rosso. Di brutto anche, però pazienza, non entriamo in questi particolari, diciamo che è talmente bello, talmente... State attenti, ecco, a non macchiarvi. Esatto. Sarà così difficile. No, per carità. È invece molto facile intervenire in questa ultima parte di Cuore Denari all'800240024. Parliamo di amici del cuore. Ciascuno di noi ne ha uno, ne ricorda uno, ma in una fase particolare della sua vita. Come è andata poi a finire? Era un amico che abbiamo perso, con cui abbiamo litigato, con cui ci siamo trovati diversi, o è l'amico del cuore con cui ancora condividiamo il caffè, le nostre paturnie? Perché voi... faremo anche un'analisi tra l'amicizia tra donne e l'amicizia tra uomini, hanno delle caratteristiche differenti, ne parleremo tra poco con un altro grande amico che ha voluto essere presente, Alberto Pellai, ma intanto... Tutto quello che gremiva le nostre camere apparteneva per legge anche all'altra turca socia. Avevamo realizzato un documento in duplice copia. Io avevo disegnato una specie di cornice colorata e avevamo appeso il contratto nelle rispettive stanze in modo da ricordarlo a tutti, compresi i nostri genitori. Firma e controfirma. Se ogni mese io le portavo un libro diverso e tentavo di appassionarla a Hercule Poirot e al commissario Maigret, lei invece mi prestava i suoi orecchini a cerchio, lo zaino in Victa Rosa oppure uno dei suoi 1000 lucida labbra. Con qualcosa di suo mi sentivo finalmente bella. Insomma, la preadolescenza e l'adolescenza sono proprio gli anni dell'amica del cuore, della migliore amica, quell'amica con cui si ha una relazione molto intima, di condivisione, di esplorazione, si vive, Francesca, tu l'anticipavi, in simbiosi, si condivide tutto, abiti, segreti, sogni, letture, paure, piante, risate, ed è una relazione che gioca un ruolo fondamentale per delineare proprio la propria identità femminile. È una relazione intima, totalizzante, preziosa, che, attenzione, condiziona anche il nostro modo di intendere e vivere da adulti l'amicizia. Se siamo stati scottati, delusi, probabilmente andremo a cercare l'amica e diverse amiche del cuore, quasi a riscattare questo dolore. L'amicizia tra Tessa e Clara nasce proprio nell'adolescenza. Sì, nasce nell'adolescenza, proprio negli anni, diciamo, dei primi anni del liceo, e quindi, come dicevi tu, è un'amicizia dove le due ragazze in qualche modo si scoprono attraverso l'amica. Mm-hmm. Sono due amiche molto, due ragazze molto diverse. Già molto dai diverse, capelli. Da tutto, però sono entrambe affascinate dalla diversità dell'altra e sembra che riescano in qualche modo a crescere insieme, anche condividendo tutto, addirittura anche l'amore e la passione per un ragazzo. Quante volte se il tuo ragazzo è allora anche il mio, e si pensa, si sogna anche di riuscire a condividere addirittura un amore, cosa che chiaramente è impossibile. Però poi evidentemente durante gli anni della crescita, della maturità, qualcosa in questo romanzo, qualcosa si spezza. Devo dire che quando racconto un po' in brevissimo tempo la storia, la trama di questo romanzo, non c'è persona, donna o uomo, che non mi dica: anche io avevo un amico del cuore, un'amica del cuore, ma poi qualcosa si è rotto, qualcosa si è spezzato. Non sempre il perché si riesce a capire. Spesso non c'è un perché, almeno da una delle due parti. Un po' ritornando al discorso della non reciprocità, evidentemente c'è qualcuno che un motivo lo dà e l'altro non lo capisce. E devo dire che questa cosa mi ha fatto pensare, visto che dicevi appunto dell'amicizia anche fra maschi, che questa, mentre io pensavo fosse molto femminile come problematica, cioè il tradimento dell'amica che in qualche modo tradisce tutte le promesse, tutte le tue aspettative, in realtà avviene anche tra maschi, e poi ritrovarsi non è per niente facile, spesso non ci si riesce. In questo romanzo non vi faccio nessuno spoiler, magari qualcosina si riesce a scoprire, quindi forse a ritrovarsi, però non è mai la stessa cosa. Amicizia, tradimento, perché quando tradisce un amico, e ancora le ricerche lo sottolineano, è un'onta ancora più difficile da superare rispetto al tradimento del partner. C'è una ricerca molto bella fatta da un'università australiana che sottolinea proprio questo aspetto. All'amico il tradimento fai fatica a perdonarlo, al compagno forse trovi delle giustificazioni, ricominci. Ma noi invece di ricominciare ci fermiamo, vi invitiamo nuovamente a chiamare il nostro numero verde, quell'amico del cuore che 800 24 00 24, e riprendiamo subito dopo insieme a Francesca Del Rosso, che oggi con noi ha chiamato me e Deborah a fare le madrine del suo primo romanzo, Amiche per sempre. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Cuore e denari. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere. Amiche per la pelle, amiche del cuore, amiche per sempre. Le parole che noi usiamo per raccontare la nostra amicizia raccontano in modo chiaro le emozioni e le aspettative che caratterizzano un modo femminile, forse probabilmente anche maschile, di vivere e intendere l'amicizia a qualunque età. In linea con noi Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno e auguri a Francesca per il suo nuovo romanzo. Grazie. Breve storia di due amiche per sempre, edito da Mondadori. Alberto, l'amicizia ha un ruolo importantissimo per la nostra vita. Senza amici non viviamo bene, no? Sono tutelano la nostra salute psicoemotiva, senz'altro, ci aiutano a crescere. Stavamo cercando di capire se ci sono delle differenze tra amicizie tra donne e amicizie tra uomini. Ci sono dei fiorfiori delle ricerche che hanno cercato di indagare questi due tipi di relazione, evidenziandone alcune differenze. Alberto. Sì, intanto diciamo che l'amicizia in adolescenza, che è proprio l'età in cui nasce l'amicizia tra le due protagoniste del romanzo di Francesca, è proprio un fattore di protezione incredibile per la crescita di un ragazzo o di una ragazza, perché l'amico e l'amica del cuore rappresentano una palestra incredibile dove tu puoi mettere in gioco la tua dimensione più profonda, il tuo bisogno di intimità, il tuo bisogno di protezione, anche la tua zona di trasgressione senza la complicanza della sessualità. E quindi avere un amico o un'amica del cuore diventa proprio una modalità per allenare le tue competenze prosociali, per acquisire competenze emotive, per imparare l'empatia, insomma, per prepararsi poi alla vita. Rispetto a maschi e femmine, in generale gli amici, l'amicizia al maschile è fortemente centrata sull'azione, c'è un sacco di cose da fare insieme e anche quando c'è da parlare si parla molto del mondo fuori, lo sport, prima di tutto la politica ed eventualmente le ragazze, però non la tua ragazza, le ragazze. L'amicizia al femminile invece è fortemente centrata sull'emozione e quindi è decisamente più intima ed è un'occasione profonda per scoprire la propria interiorità rispecchiata da quello che ti dice l'amica del cuore e dai consigli, dai suggerimenti e dal sostegno che l'amicizia al femminile mette nella vita delle ragazze. Grazie Alberto, non ti chiediamo il nome del tuo amico del cuore, ma le amiche del tuo cuore siamo io e Deborah. Sempre. Ecco, vedi? Attento a quello che dici. Grazie Alberto Pellai. Allora, ciao, ho appena prenotato il libro di Francesca, ci scrive su WhatsApp un'amica, il 349-238-6666. Grazie. La bancarella è aperta. Antonio ha 60 anni e ha un amico che si chiama Ezio da 54 anni. Ci rispettiamo e ci vogliamo bene. Il rispetto è il segreto dell'amicizia. Francesca, adesso c'è una frase che tu riporti nel libro: perché non hai risposto alla mia lettera, vorrebbe chiedere Tessa quando, dopo anni di silenzio, 20, incontra nuovamente quell'amica speciale che un giorno è uscita dalla sua vita senza un perché. Oggi le lettere non si scrivono più, in compenso siamo sempre tutti collegati, rintracciabili facilmente anche quando e da chi non vorremmo più farci trovare. L'amicizia probabilmente si è trasformata. Quanto è cambiato? Insomma, se Tessa e Clara fossero oggi due adolescenti, l'amicizia sarebbe altrettanto intensa? Questa è una bella domanda, però. Sicuramente. Io chiaramente mi sono un po' immersa in quegli anni in cui anch'io ero una ragazzina, quindi ero attaccata mente, anima, corpo al filo lungo del telefono fisso nella camera dei miei genitori e passavo lì le ore, mi addormentavo anche mentre parlava l'altra mia amica e lei si addormentava mentre parlavo io, per dire quante ore stavamo al telefono. E non avevamo il cellulare, non c'era internet ed era molto più facile scomparire dall'esistenza dell'altra. Questo è evidente, nel senso che rispondeva la mamma l'una dell'altra, diceva no, non c'è, bastava in fretta insomma a non farsi più trovare, cambiare giro, no? Rispetto a oggi, diciamo che secondo me le amicizie che noi chiamiamo tali su Facebook chiaramente non lo sono, insomma. Se vai a vedere, no, ogni profilo 4.000 amici, troppi. Certo, ecco, diciamo che il concetto di amicizia su Facebook è leggermente ampio. Le amiche vere le vedi lo stesso, ci parli ore al telefono, quindi in qualche modo probabilmente la passione è la stessa. Secondo me può essere più dispersiva oggi con queste nuove tecnologie e quindi poi è meno esclusiva sicuramente, è molto più difficile sparire e quindi forse è anche non farsi ritrovare. Adesso insomma, se vuoi trovare qualcuno la ritrovi sempre. Brava, ci si può perdere ma poi ci si può ritrovare. A un certo punto, mentre tutti fingono di essere assorti ad ascoltare il discorso del presidente del club, che ha una R moscia che sembra voluta, Clara mi lancia un'occhiata stranamente intima. Complice il vino rosso che rilassa ogni muscolo, sento un forte odore di mare e la sabbia tra i denti, come quando un'onda inaspettata ti sbatte sott'acqua e ti schiaffeggia con inaudita violenza. Mi travolge una ventata di nostalgia e accompagno le palpebre giù. Per un istante, che sembra lunghissimo, tutto si fa buio. Faccio un tuffo nel passato e lei è lì con me, con quello stesso identico gesto di profonda alleanza. Francesca, perdersi per ritrovarsi succede nella vita e anche con le amicizie, ed è quello che succede un po' alle protagoniste. Allora, un'amicizia è per sempre se l'amica, quella vera a cui basta uno sguardo per cancellare anni di silenzio, è subito e ritorna ancora presente. Sì, diciamo che sicuramente si può ritrovare l'intesa, probabilmente la ferita del tradimento rimane sempre, viva, non viva, in qualche modo si fa sentire, perché nel momento in cui tu ti senti tradito è difficile poi perdonare davvero. Si può riprovare a ricostruire quell'amicizia sulla base di quell'empatia che evidentemente a volte, non sempre, si riesce a ritrovare. Io sorrido sempre in questi giorni quando vedo mia figlia che ha 10 anni e che fa liti, ma veramente violentissime, con bigliettini, lettere, eccetera, con le sue amiche. Io tu sei la mia amica del cuore, allora perché vedi là. Ma è un dolore struggente. Pianti, sì. Disperazioni, ma mi fa una tenerezza pazzesca e in qualche modo la nostalgia canaglia verso quelle amiche del cuore mi prende sempre. Ho avuto una bellissima amicizia, ci scrive un'ascoltatrice, era veramente un'amica del cuore, purtroppo non l'ho invitata al matrimonio, non ci siamo più riviste. Peccato, sbagliato, amicizia rotta, ma le amicizie si possono recuperare, a volte basta una telefonata. Maria Luisa da Milano, la telefonata ce l'ha fatta, in 30 secondi chiudiamo con la sua testimonianza. Sì, io buongiorno, ho 57 anni, 2 figli, ho avuto, voglio ricordare delle amiche, due, sì, che non vedevo da tanto tempo. Una che mi ha, diciamo, svezzato dal punto di vista della femminilità, sì, perché io vestivo con come lei, e l'altra, che ci salutiamo. E l'altra è divertente, simpatica, ecco. Abbiamo avuto vite diverse, ma ci siamo riviste. Maria Luisa è una donna fortunata. Breve storia di due amiche per sé. Sempre Mondadori di Francesca Del Rosso, di cui noi siamo madrine. Grazie. Grazie a voi, amiche. Bocca al lupo allora per il libro. Ti verremo a seguire a Milano in qualche presentazione. Noi torniamo domani, ma da Bologna, Cersaie, buona giornata a tutti.